metto un camion sopra. Sono fatti apposta per... sono motori che non, so, non sono velocissimi, ma sono molto resistenti. Io ho visto una Macaglia di 160 pure, ho visto, oltre 160. Ma sono già più nuovi, più recenti quelli, dai. No, anche le nostre, io, le abbiamo collaudate 120, però abbiamo molte curve, curve a raggio piccolo, e quindi non puoi sviluppare velocità, solo in rettilineo praticamente. Ah, tu non fai tutta la Sardegna, non fai. Come? Non lavori per tutta la Sardegna. No, no, io sono solo Sassari, vabbè, a volte ci andiamo anche a Macomer, qualche volta a Cagliari, però io sono sul, su Alghero, Alghero e Sorso, a volte a Tempio, Palau, sono lì, però lì ormai è chiusa, è solo turistica, non è più a TPL, è a trasporto pubblico locale, dai, lì è, da Tempio a Luras è solo turistica praticamente. Ok, scappa. Ok, dai, adesso ti devo lasciare, ti devo. Ci sentiamo alla prossima, ciao ciao. Dai, dai, mi ha fatto piacere sentirti. Un abbraccio a te, a Gabriele, buon tutto, alle prossime, ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Mimi, nuovo CB, mi. Ciao ciao. Attenzione, canale 10. Ciao Gianni. E beh, tutto bene. Aspetta che mi accorgo un po'. Stavo provando l'apparecchietto, ho fatto un po' di pulizia, quindi ho staccato il cavo e adesso li ho riattaccati. Tutto bene? Sì, io tutto bene. Tu? Sì, grazie a Dio, sì. Per andare peggio meglio così, fra. Beh, anche io dico così sempre. Ci accontentiamo, dai, cosa devi fare? Non è il massimo, perché con i tempi che corrono, guarda. Ma sì, dai. Sì, ci aveva fatto anche grata con bombola, c'era anche Luca prima. Ah, no, non lo sapevo, perché io, vabbè, te lo sai che c'ho la passione del canto, stavo cantando fino adesso. Vabbè, dai, un po', voi sì, un po' da una parte e un po' dall'altra. Sì, mi fa molta compagnia il canto, mi faccio i contest, eccetera, mi diverto. È un mondo per me che non conosco, però a molta gente piace, tipo mia cognata, le piace molto cantare, no? C'era occhio, poi va sempre a queste serate qua. Anche io, il sabato solitamente vado, adesso sono due sabati che non vado, ma se no ci vado anche io, mangio la pizza o mi mangio qualche cosa e poi cantiamo. Dove vai in genere a Sassari, se lo puoi dire? A Blackstone. La Blackstone? Certo. Ho capito, qui è per la niente, dai. Non è che lo sapevo. E li fanno serate a tema, dai, a karaoke, diciamo. Sì, fanno karaoke, poi c'è qualche volta che ci sono anche canzoni sassarisi, che a me, vabbè, non è che mi piacciono più di tanto, però che capito lì, magari resto lo stesso a ascoltare. Qualche volta ha suonato un ragazzo giovane con la fisarmonica, insomma c'è un po' di spettacolo il sabato. Ci ho mangiato qualche volta lì, ma al volo con degli amici. Però serate, vedi, non ne ho mai fatto. Ascolta, possiamo fare una prova in FM? Perché mi sembra che ancora sono un po' fuori. Beh, passati sì. Eia. Luca non ci ha sentito ancora. Sì, si sentirà anche in FM, ci sentirà. Ma io come ti ascoltavo là, ti ascolto qua, la stessa cosa. No, non lo so. Quindi noi ci ascoltiamo bene, invece lui ne sente bene uno e uno male. Io li sentivo bene tutti e due. Come mai? Chi lo sa. È un inghippo questa frequenza. Ecco, la frequenza che ricevi tu e quella che trasmetto io sono le stesse, quindi lui doveva sentire bene tutti e due, non lo so. Guarda. Ma tu hai toccato la frequenza per caso? Ma quando? Lo stavi registrando, perché hai detto che uscivi un po' fuori, non lo so. Sì, io ho spostato 7-3 per sentire bene a te, però in recezione non ho toccato il fine. Quello, la trasmissione l'ho lasciata centrata. Ah, quindi si è spostato. Prova a metterla a 7-5. Adesso sono 7-5. Se è chiaro lo stesso, buio non capisco. Vabbè, non mi senti bene. Sì, vabbè, la M sì, poco fa in FM io sono corretto, capito? Ah, ok, ho capito. Vediamo un po', Luca, se c'è. Sì, sono qua. Cava cava. E adesso come lo senti? In AM è benissimo. La M è più, diciamo, meno sensibile ai piccoli spostamenti. Perché in FM lui si è spostato, ha dato 7-3 invece che 7-5, forse è per quello che tu lo sentivi. A me invece io lo sentivo chiaro. E mai c'è qualche piccola differenza tra uno e l'altro, se correggi uno perdi l'altro. Cosa vuoi ti dica già, boh? Sì, vabbè, interessante che ci sentiamo, la buvi. Va bene, Lu, sto bene. Sì, quello che va bene già. Sì, dai, non si lamentiamo. Per andare peggio, meglio così. In definitiva, sì. Questa parola definitiva mi ricorda una persona. Per chi si può dire? Oh, però, non so se talente di meccanica tu, Franco. Ma proprio base, meccanica motori. Praticamente la mia macchina gli avevo fatto fare la guarnizione della testata, due o tre mesi fa, Mi si è acceso oggi la spia che il motore stava surriscaldando, ma il liquido c'è. Però poi la ventola è partita, adesso non so se la ventola sta partendo in ritardo, perché se non aggancia la ventola il motore surriscalda, vero? Allora, diciamo la ventola si accende, sì, quando sale temperatura, si apre la valvola termostatica, che all'inizio è chiusa, finché la macchina è fredda, diciamo, rimane il circuito di raffreddamento rimane chiuso, cioè l'acqua non va nel radiatore. Quando inizia a salire la temperatura si apre la valvola termostatica e l'acqua inizia a girare anche nel radiatore, la raffredda e ritorna nel motore già raffreddata, capito? Ah, ecco. C'è la spia due volte oggi, non vorrei che bruciano di nuovo la guarnizione della testata. Che giramento di balle, cazzo. Ho speso 450 euro due o tre mesi fa. E bisogna vedere la pompa dell'acqua, se l'acqua sta girando bene, se circola bene, se la valvola si apre, perché a volte queste valvole si bloccano anche. Se si blocca la valvola termostatica non si apre il circuito e ti sale la temperatura. Oppure a volte si bloccano aperte e lavora a freddo praticamente, perché la macchina deve lavorare a una certa temperatura. Molti la smontano, per esempio la valvola termostatica, lasciano sempre aperta. Ma anche quello, diciamo, fa meno danno, però è un errore, perché il motore deve lavorare, non so, a 80 gradi, a 90 gradi, capito? Adesso vediamo prossima settimana all'apporto, perché mi serve per andare a lavoro, non vorrei cazzo fare danno. Cazzarola. Ma tu fidati, se devo andare fuori, bloccare di dare, va. Adesso sto aspettando a cambiarmela. Speriamo a un nuovo anno di cambiarmela, spero. Benzina o diesel? No, benzina. Perché che cos'è? Fiat? Citroen C3. Ricinizzata? 1000? 1100. Ci siamo motore Citroen, che a volte montano anche altri motori queste macchine. Tu vedi, per il mio figlio è una Opel, c'è motore Fiat Multijet. Suzuki hanno motore Fiat Multijet. È un casino. E le Opel stanno montando anche motori Suzuki. Allora, tu pensa alla Dacia, si chiama così, è la Dacia, la Sandero, c'ha un motore, motore Opel. Della Renault ce l'ha, è della Renault il motore. Adesso c'è un Renault, forse è Renault, sì, è vero. Allora, la Dacia, per esempio, la Duster grande, monta il 1500 turbo diesel della Renault. Anche la Dacia, questa, la Sandero, quella lì monta il motore della Clio. E ormai, capito, si fanno favori uno con l'altro. Sì, ma la Dacia praticamente è Renault, infatti la vende la Renault, trovi tutti i pezzi. La Dacia è una macchina che costa poco e va bene. Io mi sono seduto da poco perché questa amico l'ha presa a noleggio, è venuto a prendermi in macchina e siamo andati in un locale. E fatto sta che questa macchina è silenziosissima, bella, veramente bella, a me mi è piaciuta come macchina. Il mio collega se l'ha presa, è già la terza che prende, di Duster. Adesso c'è quella big, quella che è un po' più grande, c'ha più cofano dietro. Comunque costano poco e vanno bene. Sì, ormai è una questione di gusti, macchine brutte ormai difficilmente ne vedi in giro. Sì, ma queste macchine hanno tutte queste schede, tutte elettroniche sono. Lo so, è partito che aggiornare, io non ce l'ho così. A me mi è partita la scheda del piantone dello stesso, perché il piantone di sé non c'è proprio nulla, ma vendono tutto insieme, non è vendono la scheda a parte, vendono tutto il blocco, quindi io ho dovuto pagare tutto il blocco, tu zetto 30 euro, non ti dico altro, più 120 euro a Fiat per fare spegnere le spie, perché il meccanico non aveva, cioè ci hanno praticamente alla Fiat hanno il tester per spegnere le spie, c'erano solo lì alla Fiat, è fatta apposta per andare lì. Passato un mio giro di tutto questione di soldi, è già inutile, è tutto questione di soldi. Poi ce ne devo sapere un'altra, prenda lì, non me lo posso, e riprendevo la gomma, che avevo appena cambiato tutte e quattro le gomme, riprendevo la gomma, sono andato a riparare, e mi hanno detto che non c'era la locale perché c'era praticamente spaccata lateralmente all'interno, dietro e fuori non ci si vedeva nulla, appena appena la buscica, ma poi dentro era spaccata, quindi perdeva da lì, bisognava cambiarla, uguale non si trova dello stesso anno, perché io l'ho cambiata, ma io ho preso quelle del 2023, le ho prese nuove, beh, fatto sta che le dovute cambiare tutti e due, su 200 euro. Forse all'inizio abbiamo parlato un po' in due. Ho detto, oggi anche una lavatrice, una lavatoviglie. Se cambi un componente elettronico, una scheda per esempio, non funziona più, la devi configurare, ci vuole il tecnico. Sì, vabbè, io la lavatrice che ho per lavare 15 anni. La mia è la Whirlpool, cioè tutto il coso in acciaio. Infatti non si trovano più così, è lo blu in acciaio. Io l'avevo fatto aggiustare, avevo speso 200 euro per cambiare il cuscinetto e via dicendo, l'ho cambiato tutto il blocco interno e c'erano altri, mi ha detto ti durerà altri 10 anni perché se la puoi comprare nuova con quei soldi, però non ti durano come ti durerebbe questo, e in effetti aveva ragione. Doblò, cestello in acciaio, no doblò? Cestello. Cestello, oggi è tutto in resina, il cuscinetto è tutto inglobato dentro, bisogna cambiare tutto. Come si dice, te di Ragon, tu chissà. No, ma con 200 euro cosa prendi? Pigli Mondezza, ne ho preso una per una casa al mare da 200 euro, ma me ne sono pentito già amaramente, gli ho già cambiato il motore, l'ho cambiato, me ne sto facendo io, gli ammortizzatori, gli ho cambiato, che cosa? Il condensatore, guarda, lascia perdere. Sì, ma Whirlpool mi pare che adesso ha fallito come ditta, non pare che ha chiuso la Whirlpool, tanto è vero che quello che ci ha preso Nida, il mercato delle pulci, quello lì ne ha preso una valanga di lavatrici, però le tiene fuori, chissà come ti so, andando a comparare. Ma era Portobello? No, quello che c'è di fronte a Città Mercato, il mercatino delle pulci. Ah, io ho visto che ogni tanto comprava qualche stocco di roba. Sì, ha comprato un sacco di lavatrici sicuramente perché la veicola ha fallito. Magari vedi, sono buone, però vuole presa subito prima che prenda acqua. Non è una tettoia, niente. Cosa c'è? Vabbè, comunque, io la mia ce l'ho già un mediale. Non lo so, se la cambiò sin quando va, sì, quello delle molle forse, gli ho dovuto mettere un legno sotto i piedini perché ballava rock and roll quando c'era centrifuga. E vai la devi livellare un po'. Sì, infatti gli ho messo una tavoletta in legno sotto i piedini. Ma adesso vendono anche quelle ventose che si attaccano al pavimento, si mettono sotto al piedino e l'ho visto su internet. Sì, l'ho visto anch'io, assorbono un po' più gli urti dei piedini originali, dai. Però quando balla così, vabbè, la mia ballava un sacco, ma proprio parecchio, quando partiva la centrifuga, cara, saltava in aria, ed erano le sospensioni, gli ammortizzatori che c'ha una destra e una sinistra nella parte bassa, vicino sopra il cestello, dai, sono le molle e due ammortizzatori, e io l'ho cambiato, ma un casino per cambiare, li ho presi da internet, l'ho pagato una fesseria, e sta andando bene per adesso. Lo so, quando fa la centrifuga la balla rocca lo fa tu, ma fai. Allora cambiateli quelli lì, sono da cambiare sicuramente. I miei senza lavorare sono durati un paio d'anni, ma io la uso solo d'estate quando scendo al mare, figurati, qualche asciugamano. No, io adesso ho risolto. Metto due cassette degli attrici sopra quando fa la centrifuga, di modo che faccia il peso per non ballare. E non balla più. Hai provato il sistema, dai. Luca. Oh, è freddo, È freddo c'è. Anche se c'è il riscaldamento acceso a casa, ma è freddo. Sì, anche qua. Vabbè, c'è caldo, però mi accorgo che a volte... E sono vetricamera, A volte sento, vedo un po' di vapore. Perché io me ne accorgo quando vado a portare il cane, no? Quando rientro a casa c'è questo tepore, capo, sembra che sia caldo, capito? Confronto alla temperatura esterna. Stamattina c'erano un paio di gradi fuori, la massima mi sembra è arrivata a 9 oggi. Un attimino dove mangiare il cane. Si è abbassata la temperatura, si è abbassata di molto. Vabbè, è busuio, a dicembre siamo quasi. Oggi mio collega mi ha detto, oggi lo stava, come si dice, facendo un po' di tipo grandine, neve sciolta, Vedi, io penso, zona di Forni, quella roba lì, di Nargetu, stava nevicando oggi. Anche l'aria, hai visto l'aria era di neve, anche qua oggi. Sì. Purtroppo quando viene il tempo suo già sta facendo un tempo maro, fa quest'acqua, mi sono l'altro giorno quella tipo tromba d'aria era a casa, mi ha sradicato il rami dagli alberi addirittura. Che verso le 11 di notte, io non mi sono accorto di nulla, sicuramente ero già nel mondo dei sogni. Allora io sulla Budimudi dovevo girare per via Pirandello, lì dove c'è lo spartitraffico, come abbiamo girato c'era un uomo in mezzo alla strada, non potevi camminare, siamo dovuti scendere dalla macchina e buttarcelo da una parte perché abbiamo fermato le macchine che c'era, abbiamo messo quattro frecce perché era anche un po' in curva, non potevi cacciare da mia madre se lasciavi la macchina. Non è che siete riusciti a spostarlo, dai. C'eravamo in due, ma interessante che si possa spostare. Quando è un ramo, quando me ne è caduto l'albero andando a Porto Torsi, con la tromba d'aria che avevo fatto, hanno infatti ricordi, stavo andando a lavorare io, mi ha preso solo i bidriazzi, lì mi ha buttato un albero, cazzo, ho fatto interpretare per sterzare, ho sterzate e l'ho evitato, però con la ruota l'ho preso e me ne ha buttato fuori la patata, ma mica mi fermavo, c'era l'acqua che arrivava sul cofano, cazzo, era proprio un mare di acqua c'era. Io mi ricordo, penso che sia la stessa, noi stiamo rientrando mi sembra da... eravamo da... forse da Nulvi. Abbiamo fatto la strada che entra da passa da Sennori. Mi ricordo che una tempesta, i casonetti che viaggiavano da soli, mamma mia. sì, sì, anche io quando sono sui vidriasi, ce l'ho presente, le curve sui vidriasi per andare a Porto Torres, passando dalla Budi Budi, no? E ho fatto quelle curve, l'acqua scendeva, ma a fiuti, c'era questo tipo di moto, non so con che coraggio, a me mi arrivava l'acqua sul cofano della macchina, immaginati tu, e con tanta forza, perché era in discesa, usciva dalle campagne sporca di fango, di coso, un miscuglio tra fango e acqua. E ti ricordi se doveva essere la stessa tempesta? Io stavo rientrando quindi fine mattinata praticamente, penso questo mezzogiorno alla una poteva essere. Non mi ricordo se era di mattina o di sera, questo non me lo ricordo, però mi ricordo in particolare che ne ha buttato un albero davanti a me, proprio casa, cioè lì proprio dove c'è Agliado. Agliado lo sai dov'è? Sì, sì. E lì ha buttato giù un albero, proprio un albero intero, cazzo. E i rami andavano a finire nell'altra croce dove ero io. E uno di questi rami ha toccato la ruota e non me ne ha buttato fuori la pattana, ma mica mi fermavo. Quella tromba era passata anche tipo Bancali, mi ricordo lì, quella zona lì. Poi da noi invece un albero di pino altissimo l'ha spezzato, l'ha cimato proprio, l'ha spezzato la punta lì vicino a Mamuntanas. Tu immaginaci cosa di fare antenne se dovesse venire una cosa del genere. Vabbè, qua in città magari era più lieve e più che altro era fuori lì sulla Budi Budi, quella zona lì. Sì, era proprio una fascia beccato che andava da, diciamo, dalla parte di Castelsardo verso Anghero e ha preso in mezzo, c'era Senuri, Bancali e così e quant'altro, come si dice. Sì, sì. Tucca, è andato da mangiare a Dea. E che cane ha? Uno York. Ce l'ha sempre un cagnolino Luca, no? Sì, prima aveva Luna. E vabbè, tipo Yorkshire, non è proprio... non penso che sia puro, eh. Sì, vabbè, sono belli anche. Ho una amica lì, Alghero, che ne ha... adesso ne ha uno, prima ne aveva due, uno è morto, Michelino è morto. Adesso è rimasta questa piccolina che si chiama Sole, ma è bellina, eh. Nel senso, è una meticcia, però è bravissima. No, anche quello di Luca è bello. È bello, sia Luna che questo che c'è adesso, erano tutti due bellini. C'ha il pelo un po' lunghetto, c'è cioè baffetti, no? Le orecchiette belle viste, molto grandi ce le ha, un po' sproporzionate, però è simpatica. Ma poi i cani sono tutti belli, quando sono affettuosi sono belli. A me non mi piacciono quei cani che ti mordono, cavolo, tipo quello di Mussolini. I Pitbull, l'Amstaff, tutti quei cani lì non mi piacciono molto, sono un po' restio. E che poi dipende, a volte ne trovi bravi anche Pitbull, dipende un po' dall'educazione che gli danno, no? Penso. Poi magari un po' di indole ce l'hanno. Ah, hanno praticamente intervistato un addestratore e ha detto che è inutile che si dica, loro hanno questa indole innata proprio. E poi anche il padrone vuol dire molto, però di per sé sono cani che erano nati per combattere con gli orsi e con questi animali grossi, capito? Non sai come prendono il cinghiale, lo prendono per le orecchie, non so se le avevi visto, e lo tirano. No, non l'ho visto. E pitti, lui... Oh, io ho visto questo filmato dove il cinghiale non si muoveva, cioè la prendevano per le orecchie, cercava di rinvincolarsi ma non ce la faceva. No, ho visto qualche combattimento, la chiappa al collo, maledetto, è stata trammata il cane. E se riesce a zannarlo, te la apri in due. Io conosco il padre di un amico mio che andava a caccia e c'era Gigi, questo cane che era perfetto per i cinghiali. E ha stanato un cinghiale, questo cinghiale praticamente l'ha zannato, l'ha preso sotto la pancia, l'ha preso, l'hanno dovuto cucire lì, perché gli stavo uscendo tutto fuori. L'hanno dovuto cucire lì, però non ce l'ha fatta, capito? Ha cominciato a barcollava, non era più lo stesso. sì, sì, no, io tenevo a dire il pitbull, ho visto qualche combattimento tra cani, mi. Allora, l'istinto la chiappa al collo e l'altro cane, sono maledetti, hanno una forza poi allucinante. Sì, poi come dici tu il cinghiale, il maschio specialmente, c'ha quelle zanne davanti, quegli scaglioni, il cane te lo apre come una lametta. Certo, a Gigi l'ha rovinato, poveraccio. Era un bel cane, era un pointer, va bello. Era bravo, era molto bravo per i cinghiali. Il padre era un cacciatore e lo portava sempre a caccia. E ne aveva tre o quattro di cani. Ogni operatore, cioè, avevano molti cani. Quando andavano a cinghiali avevano tanti cani, capito? Poi fanno casino, poi i cani, come li vedono uscire, li abbaiano, li fanno scappare e loro li sparano. Però adesso non c'è più bisogno, adesso la Sassari non ha visto quello su internet che ha sparato il cinghiale, l'ho denunciato. Sì, sì, l'ho visto. Purtroppo ogni tanto qualche cane te lo frega. Anche i miei amici che hanno compagnie vanno a cinghiali, qualche volta il cane fuggi tu. Glielo apri in due. Non si può fare niente. Qualcuno però sta iniziando a usare tipo un corpetto, che lo metti al cane e un po' lo protegge. Ho capito. Vabbè, gli mettono anche nel collo quel collare largo con la campana, no, per fare casino. E anche quello lì, se dovesse prenderlo vicino al collo, lo protegge un po'. Però allora forse il cinghiale, io ho visto un cinghiale che ha preso questo cane, sai come l'ha alzato da terra, cazzo. Lui quando c'è i piccoli specialmente, o quando sta scappando, non guarda la... Se deve passare lì, ci passa e bui, qualsiasi attacco ci sia in mezzo lo fa volare. Una notte d'estate eravamo con amici e siamo andati a vedere questo complesso a Porto Torres. Poi stavamo rientrando lì dove c'è il ponte, sali dalla Budi no, per andare verso casa mia, c'è quel ponte, non so se ce l'è presente, e lì dove c'è la rotatoria ce ne sono stati una trentina di cinghiali, c'erano grandi, medi, piccoli, tutte le razze, stavano scavando le radici, stavano mangiando. Dappertutto nella gira, da noi lungolini e lungo la ferrovia è tutto rivoltato. L'altro giorno eravamo a Tempio, lo stesso, proprio dentro il paese c'è la linea che va da Tempio verso l'Uras, tutta rigirata, guarda, come un trattore. Quindi dovete ripristinare tutto? No, è a lato, quindi non... Lì praticamente sono delle cunette che servono per il drenaggio dell'acqua. Però si vede che scendono quasi mezzo metro di profondità, proprio col muso, col naso. E tanto lo scavano. L'uberrito ai maiali, non sempre che glielo mettono, per non scavare, se non si scavano la posta se ne scappa. Mi ricordo mio nonno gli metteva il fil di ferro nel naso. E l'uberrito si chiama, è Sassarino. Oggi vai, ti arrestano se ti vedono facendo una cosa del genere. Un anello di ferro. Io mi ricordo un pezzo di filiferro legato alla tenaglia. E se lui praticamente va a scavare, gli fa male e non scava. E allora, perché c'erano, gli lasciava anche le punte, no? Quando gli facevi poi due giri con la tenaglia, le punte gliele lasciavi belle e vispe, quindi quando lui andava a scavare si pungeva, cambiava idea. Però oggi una cosa del genere penso non te la facciano più fare. Oggi non puoi neanche legare il cane alla catena. Oh, per carità. Ma adesso non puoi fare più nulla. Vabbè che tante cose erano proprio primitive, dai, diciamoci la verità. Erano cose che facevano anticamente, ma io non le concepisco. Mi ricordo mio nonno castrava anche i maiali, no? Per far ingrassare, a un certo punto li castrava. E mica tagliava un paio di girate, gli dava, e poi una passata di creolina. Allora, non so se te la ricordi la creolina. Sì, me lo ricordo. E per far ingrassare lo facevo. E poi dopo qualche periodo ci faceva salsiccia, si diventava 200-300 kg. Certo, poveracci. Che fine che fanno quegli animali, eppure sono molto intelligenti, lo sai maiale. E poi hanno un fiuto eccezionale, lo usano anche per i tartufi, non so quante volte superiore al cane l'ho fatto. Adesso c'è questa usanza che se li portano in casa. Non saranno maiali di quelli grossi, ma quelli. Vabbè, ce n'è uno su internet che ce l'ha di quelli massicci, proprio maiali grossi, in casa, ma come cazzo fai? Come ai vecchi tempi, ho già. Te lo ricordi quello che girava guinzaglio col maiale al ponte? Ma qui da dove? A Sassari? E allora, mio padre ha detto che una volta non credeva ai suoi yuk, si è girato due o tre volte, dice, ma è possibile che sia un maiale? Ha detto che è andato apposta, si è avvicinato ed era un maiale. E era un tipo che... E ce n'era uno anche che aveva la volpe in Piazza d'Italia, andava a guinzaglio con la volpe. No, no, no, mai visto né la volpe né il maiale, cioè l'ho visto in qualche video così, ma le razze un po' modificate, che sono più piccole, col muso un po' schiacciato, se le tengono in casa, non lo so. Adesso a Porto Torre ci hanno fatto un filmato di uno che aveva l'agnello a guinzaglio. Prima vedete se arriva a Natale però l'agnello. Io ho pensato la stessa cosa, che magari prende in mano ma mangia scivo. Sono cose strane, vabbè, comunque sono animali domestici, dai, però non vanno tenuti in casa, ci sono i posti dove si tengono certi tipi di animali. Sì, poi non immagino dove vada in bagno questo animale. Magari quando fai bisogno in un viaggio che faccio, io lo so perché li portavo col camion a macellare, andavo a ritirare, li portavo al mattatoio, poi andavo con l'altro camion, li ritiravo macellati, li portavo giù. E fase di un fiago, dovevo pulire il camion, prima di scendere dovevo pulirlo, una puzza che non si poteva stare. Infatti, c'è un gatto, va bene, impara subito, gli mette la lettiera e va lì. Il maiale non lo so. No, il cane bisogna portarlo giù. Il cane io lo porto giù alla sua ora, infatti fra poco devo andare. Alla sua ora lo porto giù, faccio il bisogno e non mi rompo le scatole, capito? No, l'abilità, Tyson è bravo, Tyson sta tutto il giorno tranquillo, sino a quando lo devo portare, a meno che non sia bene. Ma il cane poi ti avvisa, quando, come si dice, deve fare i bisogni ti avvisa. Sì, ti chiama. Infatti adesso alle 8:15 sono ancora, che ore sono? Alle 8:15. Alle 8:15 in punto lui comincia a mugugnare. E allora? Cane ti avvisa al maiale, non credo che ti avvisi. Dove si trova? Penso alla faccia. Ma poi quasi un varanghelo. Una valanga fa. Mamma mia. Vabbè, vedi invece. Forse i cavalli o gli asini hanno sempre un punto dove vanno sempre a fare bisogni, sono un po' abitudinari. Ecco, vabbè, ma i cavalli si sa che se lo fanno nella stalla, l'indomani gli pulisci la stalla e via. Ma tenete il maiale dentro casa, che sia piccolo, che sia grande, catta, è una cosa. Poi hanno detto che il maiale non è sporco, è perché lo teniamo noi sporco, perché se no il maiale come animale è normale, basta che tu lo lavi, non rimane sporco come animale, capito? Però io lo so da amici e abbiamo detto che ci mangiano anche i loro bisogni, i maiali. Mi sa che il maiale mangia tutto, mangia anche i suoi simili, mi sembra. Sembra mangiato la scarpa a me. Una volta siamo andati in campagna di questo amico mio, no? E abbiamo bevuto, dico la verità, e ci siamo seduti sul muricciolo con i piedi verso dentro il porcile, no? Mi è caduta una scarpa a casa, me l'ha mangiata il maiale, me l'ha tutta carrozzigata, non siamo usi la mangiata. Io guarda, no? Sono dovuto tornare a casa con una scarpa sola. adesso era affamato, era. Beh, non gli davano tutto, gli davano di tutto, gli davano bucce di anguria, e siccome non se lo venerà più, gli davano anche quando le anguria erano, uscivano bianche, mica le aprivano, che non gli piaceva il colore, allora gli davano le maiale. Prima si mangiava tutto l'interno, si faceva proprio a poco, e dopo si mangiava anche la buccia. Sì, si mangia tutto il maiale, no? Non se ne mette problemi, no? Carne e tutto. Mi ricordo, mio nonno invece gli faceva una specie di poltiglia, un impasto con acqua, mettiamo acqua tiepida, poi ci metteva crusca, farine strane, boh. E lui col muso dentro, ecco, come dice tu, si faceva poco, qui. E bucuila. No, trattava bene, che poi alla fine che faceva era quella, Poi mio nonno era anche macellaio, quindi da lì ogni volta che ammazzava il maiale era una festa. Mia nonna poi si raccoglieva subito il sangue con la frusta di legno per non coagularsi, no? Faceva il sanguinaccio e poi tutto l'interiora, rimizzato con tutto l'interiora, le budelle poi lavate per fare la salsiccia. E guarda, era una festa. Io ho partecipato in una campagna, l'hanno ammazzato però con la pistola. E praticamente gli ha messo da mangiare fuori, l'ha fatto uscire, ciò, come è uscito a mangiare, che ha abbassato la testa per mangiare, boom, l'ha tirato. Adesso spostatevi tutti, boom, è caduto in terra, poi l'ha punto subito, l'ha fatto uscire il sangue, e l'ha fatto sanguinarci da lì. E poi il figlio era macellaio, quindi l'ha tutto tagliato, fatto, l'ha lavorato, capito? Beh, ci vuole mano buona. No, mio nonno invece, prima lo legavamo, no, con le zampe, prima il muso, poi girato sotto sopra, zampe in aria, legate a croce, e poi lui andava sopra a cavallo e lo toccava con la mano, aveva il suo coltello, un bel coltello, una lama di buono, penso 25-30 centimetri, gli arrivava al cuore in una maniera impressionante, era un chirurgo praticamente. Sì, ci pone la mano, se no li fai soffrire, già si chirrie, già riuscì, ma invece con la pistola la si chirrie dovuta. Solo che quando stavo raccogliendo il sangue ha dato una zampata, per poco lo rovescio. Mi lo senti a Tyson, mi sta avvisando. Cosa accetta? A me già non è che mi piacciono queste, qui lo devo fare per lavoro, portare gli animali vivi, e poi li vedevo macellare tutto quanto, sparandoli, facendoli, per carità, che cosa criminale, non mi piace, perché sono molto animalista e mi danno fastidio queste cose, però purtroppo per lavoro lo devo fare. Sì, comunque complimenti a Taito, c'è un orologio in testa, un orologio atomico, è 45 ti ha chiamato. Dai, ti lascio così, fai il dovere. E ci sentiamo le prossime, dai, iniziamo a preparare anche la cena. Grazie per la chiacchierata, un abbraccio e alle prossime. Ok, ciao. Ciao Franco, stammi bene. Buona serata, buona continuazione, ciao. Ciao Gianni, ciao Franco, stavo cenando, c'avevo fame, ciao. Ciao, ti abbiamo chiamato, sempre il solito, sì. Hai finito di rompere, hai finito? Oh, uomane! Ho trovato squillare il telefono. Già, l'ha sfogliato un panino, sotto la carne nel verde con gli olive da confetto, ma la rete di cita, ma buona, eh. Adesso mi sto mangiando una mela, fuggi, prima che se ne fuggi me la mangio io. Babbo, buonanotte, ciao. Quindi mordi e fuggi. C'avevo fame, fra, così io dato che l'ho presa a letto, che alle 3 mi devo alzare. All'inizio avete parlato in due, dai. Comunque, buonanotte a tutti e due, a te, buon lavoro, dai. Alle prossime, Luca, ciao, un abbraccio anche a te. Ciao.